ci vuole per capirti un po'. Forse tanto quanto te ne basta per scoprirmi. Quel tuo gioco di sottane lo sai però. Io sono un uomo, non rimango certo indifferente. Basta poco per innamorarsi di te e del tuo modo strano di svestirti. E allora scendi dal tuo trono di sesso perché io sono un uomo, non rimango certo indifferente. Io sono un uomo, non rimango certo indifferente. E allora dai, cammina, cammina, bambina. Dimmi donna che hai fatto. Sarò strano, forse un pazzo, ma ho bisogno d'amore. Che donna sei se tu rimani sempre indifferente? Che donna sei se tu rimani sempre indifferente?